Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Amministratore sta in debito con il giardiniere perché l'ATER non paga. Noi condomini paghiamo, noi non possiamo avere il giardino come vorremmo averlo. Tutte le volte devo stare a minacciare o devo stare a discutere per il menefreghismo degli altri. Cosa sei che ti fai? Non te puoi fare queste robe qua. Cosa non posso? No. Sì che posso, è parte mia là. Ma devo, non te puoi fare queste robe qua. Guarda che pezzi. Guarda che roba! Uè squadre! Ho deciso, mi avete convinto. Basta di discorsi intellettuali. Voglio essere pop. Risalgo alla radice del problema che sto cercando di discutere, di sviscerare con i miei ascoltatori da qualche tempo. Non deve esserci complessità. Andiamo alla radice. Qual è il luogo in cui si litiga di più, in cui ci si trova veramente a volersi scannare, in cui si odia la persona che si è accanto, in cui si sente veramente il peso e la promiscuità con altri esseri umani? È il luogo in cui viviamo, è casa nostra, è quello che vediamo al di là del portone di casa nostra, è il condominio in cui viviamo, sono i vicini di casa. Avete sentito? All'origine dei grandi dissidi internazionali, all'origine del confronto delle ideologie, all'origine e alla scaturigine di ogni intolleranza, di ogni insofferenza, di ogni odio di casta, esiste il cartello condominiale. Ve ne leggo alcuni. Ve ne leggo qualcuno perché veramente è una sorta di tavola della legge, è il punto base, il numero zero di ogni possibile contrasto tra l'umanità. È quello che veramente sta alla radice del fatto che proviate disprezzo per chi ragiona, per chi usa le parole, per chi fa discorsi complessi quando voi volete persone che parlano come mangiano. Vi leggo qualche cartello, voi poi mi riferirete se cartelli analoghi stanno cominciando o sono cominciati o da tempo sono stati affissi accanto ai luoghi in cui voi vivete. Prima di aprire le porte aspettate che l'ascensore sia completamente fermo, deve fare tloc. Attenzione, il numero dei tasti non corrisponde sempre al numero dei piani. È severamente vietato l'utilizzo dell'ascensore alle persone claustrofobiche. Era stato già messo un avviso di non scorreggiare in ascensore. Ci risiamo, si sente l'olezzo. Cartelli scritti spesso a mano, con una calligrafia praticamente sempre uguale, qualunque sia la latitudine in cui viene affisso questo cartello. Esiste una sorta di genetica omogeneità tra chi affigge questi cartelli. Attenzione, è stata pulita la pedana a prezzo di sudore. Se li volete pulire, i piedi, sì o no, l'ascensore non è un montacarichi. I calderelli di Petriccio si portano giù a braccio. Lo volete capire? È ora. Questo, i calderelli di Petriccio, sarebbe la risulta degli appartamenti in cui fanno delle ristrutturazioni. Si ricorda che è bene non sporcare le scale con sacchi di pattume sgocciolante, le altre sì consigliabile, ma mettere rifiuti negli appositi cassonetti. Certo, sempre un po' traballante anche la sintassi, ma non importa, l'importante è la motivazione, è lo spirito che fugge fuori dal cuore, è il senso di partecipazione, è l'odore della gente che finalmente si fa sentire. Chi ha fatto le urine in un secchio, senta vergogna, attenzione, prenderanno dei provvedimenti. E questo accade nelle case italiane. Ve ne leggo qualcun altro. Pregasi lasciare, almeno in estate, socchiuso il vasistas. Si eviterebbe il banchetto dei piccioni. Il banchetto dei piccioni. Andiamo avanti ancora. Assolutamente vietato giocare a pallone con i piedi. Questo è il più sintomatico, il più simbolico. È vietato giocare a pallone con i piedi, quindi è permesso soltanto la palla a mano, la palla avvelenata e basta. Per il fumatore che butta le cicche di sigaretta alla finestra, che dà sulla rampa dei garage, posare un posacenere e svuotarlo nel suo, sottolineato, cestino di casa. Andando ancora avanti, si prega di camminare piano, questo è bellissimo, andando ancora avanti, maledetti a chi prende i nostri gerani. Attenzione caduta pigne. Seminato e non calpestare. e non cacare, c'è scritto anche questo. Beh, io ho in mano un compendio di tutti questi cartelli. Questi cartelli uniti assieme e divulgati nella popolazione sono le tavole della legge della nuova società emergente. Sono i segnali del passaggio oltre il cantiere degli umarels, di cui parleremo questa mattina. Datemi segnali dei nuovi tutori dell'ordine. Anche voi avete nel vostro condominio, luogo in cui vivete, persone che, se Dio vuole, grazie a Dio, si danno da fare perché ci sia una società ordinata e corretta. 800 24 0024. In cosa vi infastidiscono i vostri condomini? Cos'è che vi dà prontamente, immediatamente, a pelle fastidio della loro presenza? Fatemelo capire, al di là di ogni discorso biecamente intellettuale che mai più farò a questo microfono. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Ecco 10 regole d'oro per rispettare i tuoi vicini. 1. L'ora del silenzio va di regola dalle 14 alle 16 e dalle 22 alle 7. Gli orari sono stabiliti dal proprio comune di residenza. 2. Evita di tenere al massimo il volume dello stereo e della televisione e, se proprio hai bisogno di un volume alto, prendi in seria considerazione l'uso delle cuffie. Ce ne sono anche modelli senza fili. 3. Se devi fare dei lavori nel tuo appartamento, evita di usare trapano, frullino o altri attrezzi rumorosi di notte, di mattina presto e, se possibile, dalle 14 alle 16. 800 24 0024, perché questa mattina vi elenco le regole del buon condominio, perché se il mondo è cambiato bisogna ricostruire una società nuova, ordinata su altri principi. Cominciamo dal condominio, visto che già nel condominio c'è chi ci pensa da anni, da decenni. Ci sono una sorta di angeli custodi, di tutori silenziosi della quiete e della buona educazione condominiale. Sono quelle persone che hanno molto tempo a disposizione, perché nella maggior parte dei casi, fortunati loro, sono pensionati, quindi tutto il loro tempo lo dedicano all'ammaestramento delle persone ineducate, maleducate, incivili, che non conoscono le vecchie regole che hanno sempre dato un senso alla società delle brave persone. Raimondo, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire solo una cosa carina, cioè una carina, che io mi sono capitato in un ascensore dove c'era il cartello delle scoregge, sì, dove sotto c'era scritto: sono io che scoreggio, non mi beccherete mai. Sì, è chiaro. Da un certo senso iniziare una trasmissione proprio con questa sorta di bassa espressione, ma se parliamo di umanità, se parliamo di incapacità di sentire l'odore della gente, anche di questo bisogna parlare. Al cartello del signore che aveva apposto, potevo usare anche diciture diverse, evitate di soffermarvi in attività di flatulenza all'interno dell'ascensore, ha fatto questo cartello, qualcuno ha risposto: dice, sono io. Una sorta di segno di rivolta, di questa sorta di anarchia, di libera espressione anche di una necessità corporea, e chiaramente questo è un elemento nocivo per la società che sarà eliminato assieme agli intellettuali. Stefano, buongiorno. Eccomi, buongiorno a te. La sto ascoltando con attenzione. Sì, no, niente, sentivo questo, io sono un amministratore di condominio da ormai 28 anni, per cui dico, quelli che tu hai elencato sono non tanto una piccolissima parte di quelli che noi vediamo circolare, ma il bello perché ti ho chiamato è che io stamattina stavo andando a prendere un cartello, perché da 6 mesi nel condominio, uno dei condomini che io amministro, c'è un signore o una signora che, anziché usare il posacenere per le sue sigarette, le butta dappertutto. Allora abbiamo fatto una piccola indagine, siamo riusciti, pensa te, a restringere il campo, sappiamo la marca che fuma. Allora io stamattina, un po' ironicamente, ho scritto: siamo quasi vicini al test del DNA, e dico, e nel caso ti prendessimo, dico, ti faremo pagare addirittura un anno di servizio di pulizia. Ma lo sa, signor amministratore, mi dà un'idea, perché anche io ho un ciccatore misterioso che li butta da, è un palazzo di 6 piani, sotto c'è un parcheggio e me, devo sempre mettere lì la macchina perché è un parcheggio riservato per via di mio figlio, la mia macchina perennemente coperta di mozziconi di sigarette. Anch'io ho cominciato a fare una piccola indagine, ho cominciato ad andare per esclusione, perché oltre i mozziconi di sigaretta trovo dei cotton fioc per orecchie, dei fazzolettini igienici usati, accessori di solito si buttano nel cestino del bagno, quindi sto facendo l'analisi dei 6 bagni che corrispondono al parcheggio della mia macchina per restringere il cerchio e vedere chi la mattina si fuma una sigaretta, la butta dalla finestra, si scatuzza le orecchie e le butta alla finestra, si dà una pulitina, si toglie il trucco e butta tutto alla finestra, sul povero tettuccio la mia macchinetta. Quindi grazie, il test del DNA comincia a essere, almeno la minaccia, il test del DNA comincia a essere un deterrente giusto per trovare quel giusto equilibrio che fa sì che sia una società regolamentata. Antonella? Sono in linea? Certo, sta parlando. Volevo parlare a proposito dell'abitudine nel mio piccolo condominio di una casa di vacanza di 2 vicini di fare i gattari. Loro ritengono opportuno distribuire piattini di carta con residui di cibo in modo da attirare tutti i gatti del vicinato, i quali tra l'altro vengono a defecare sul mio balcone o nel mio giardino. Abbiamo tentato in tutti i modi di spiegare loro che se proprio vogliono esercitare questa pratica dovrebbero allontanarsi lungo la strada magari e porre là. Avete anche messo dei cartelli? No, abbiamo parlato direttamente da vicino e per cui adesso ci accingiamo a mettere il veleno per uccidere i gatti. Cosa che mi fa orrore, perché tra l'altro a me gli animali piacciono. Cioè, siete arrivati a questa situazione estrema di gettare del veleno ai gatti, ma non sì, si fa. Ma non cosa si può fare, dire? È un reato. No, è un reato. Questo poi, sì, lo so che è un reato. Ma poi i gatti sono incolpevoli. No, mi scusi, dottore. Io metterò. Dovrei più coerente avvelenare i vicini piuttosto che i gatti. Anche a questo abbiamo pensato, però. Per i gatti non c'entrano nulla. Che è un reato maggiore. Forse è un reato maggiore. Non so, di questi tempi non so dirle cosa, sì, per cosa rischierebbe di più. Poi le aggiungo che questi gatti entrano in casa, io sono impedita, non posso lasciare i balconi aperti perché i gatti mi entrano in casa. Ma scusate, voi buttate delle ossa nello stesso posto, così vengono i cani e scacciano i gatti? No, perché i cani non saltano come i gatti. Accidenti. Dai cani ci si può anche difendere, dai gatti è impossibile. Ci vorrebbe delle esche per canguri, così saltano. Io non incorro in nessun reato, perché io nella mia proprietà privata ho diritto di mettere il veleno per i topi. No, lei con questo escamotage. Sì. Mette un cartello. Attenzione, sì, allora faccia così, guardi, le do un consiglio. Le metta senza mettervi, lasci perdere il veleno, poi magari se lo beve suo marito per sbaglio succede una tragedia in famiglia. Metta solo dei cartelli. Attenzione, esche velenose per topi. Le gattare non metteranno più il cibo per gatti, oppure i gatti mangiano le esche per i topi, così nessuno si fa male e forse con questo deterrente riuscirà a evitare di averci questa sorta di sconcio sotto il balcone. Danilo Masomasotti, buongiorno. Buongiorno. Ho scaldato il terreno, ho lasciato la sorpresa, sì. In realtà questa mattina ho anticipato il contenuto della nuova, il nuovo trattato di sociologia omarellica di Danilo Masotti, che è un compendio molto dettagliato, con una ricerca documentale veramente che fa invidia, di tutta la cartellonistica omarellica. Oltre il cantiere, fenomenologia degli Umarels, edizione Pendagon, è il libro fresco, uscito questa mattina in libreria, della nuova definizione dei confini di azione degli Umarels. Di cosa si parla? Di cosa si parla in questo libro? In questo libro si parla appunto delle strategie di controllo condominiale, che sono principalmente i cartelli. Già da queste prime telefonate abbiamo sentito comunque quanto il problema tocchi tantissimo le persone. Ad esempio, io ho catalogato comunque tutti questi cartelli all'interno delle strategie di controllo condominiale sui luoghi di controllo, ovvero quali sono i luoghi che gli Umarels possono controllare. Sono appunto campanelle riguardanti i citofoni, le buchette della pubblicità, i campanelli, i cancelli, le reti, le recinzioni, le porte, i portoni, gli ascensori, le scale, i gradini, i pavimenti, le finestre, i cortili, i parcheggi, i passicarai, garage, cantine. Quindi ogni volta che all'interno di un condominio l'Umarell trova un di servizio, ad esempio questo il signore ha chiamato prima dell'ascensore, il problema ascensore e peti, allora all'interno del anche del mio libro troverete dei cartelli che riguardano questa problematica. In particolare c'è una cartellonistica legata al cibo dato impropriamente ai gatti? Sì, cioè ho dei cartelli che riguardano comunque problematiche con animali. Con i piccioni, con i piccioni soprattutto vedo. Sì, in questa ho visto sì, ce ne ho uno con i piccioni dove ho addirittura un cartello a norma di legge dove si dice proprio cioè non dare cibo ai piccioni e viene citato l'articolo del codice. Ci sono spesso delle problematiche con i gatti, oppure c'è un cartello all'interno del libro dove c'è un gatto che si intrufola sempre nella scala di un condominio, ma però non può entrare in quel condominio, allora c'è un cartello proprio nei confronti di questo gatto. Ci sono è un gatto che appartiene a un altro condominio naturalmente, esatto, se fosse di un condomino potrebbe. Esatto, è un gatto che poi è stato identificato, che anche nella telefonata precedente si parlava, sì, ti abbiamo identificato, c'è sempre questa cosa di identificare un umano, un animale, e quindi in questo caso il gatto era stato identificato perché aveva un collarino verde. Questo è importante. Allora, una domanda, Danilo, prima di passare alla linea, perché è importante. No, è importante. Noi analizziamo questo sistema di controllo del nucleo principale abitato dalla società degli umani, che è il condominio, in cui gli uomini e le donne e gli esseri umani si confrontano in maniera primaria nei loro rapporti, definiscono le loro aree di dominio o di appartenenza e entrano in contatto con alcune differenze, diversità, Weltanschauung differenti dalle loro e quindi, visioni della vita, del mondo diverse dalla loro, mi sto curando, diverse da loro, e quindi hanno per la prima volta la consapevolezza di cosa sia la complessità della società. Gli Umarells, che sono i vigilanti occulti e non autorizzati che si sono impossessati di questa sorta di mandato di controllo, hanno messo a punto un sistema che è omogeneo, uguale in tutta Italia, forse in tutta Europa, forse in tutto il mondo, perché ovunque vai trovi Umarells. È azzardato dire, tu che sei un attento sociologo e conoscitore della realtà umarellica, che in realtà noi, studiando il luogo di coltura degli Umarells, studieremo quello che saranno il futuro di dominio e di controllo della società mondiale? Sicuramente. È chiaro che all'interno di ogni condominio ci sono dei sistemi che possono essere anche delle piccole dittature, ma dittature, uso un ossimoro, dittature democratiche. Cioè, certo. Un Umarell di solito si autoproclama il capo del condominio. Siccome all'interno del condominio vivono persone con vite differenti, e siccome fa comunque comodo che ci sia una persona che si accolli tutti gli oneri e gli onori del condominio, allora viene data carta bianca a questo Umarell. Posso dire per esperienza personale che quando all'interno di un condominio si trova un Umarell, il condominio funziona molto meglio. Se l'Umarell viene a mancare per un qualsiasi motivo, un trasloco, un si entra nel caos, è un casino. Allora diciamo così, questo modulo che abbiamo scoperto di gestione di una realtà territoriale inizia da una persona che si impossessa del potere approfittando di una sorta di vacatio legis, di un vacuum istituzionale, cioè quando c'è un buco di potere c'entra l'Umarell. Applicato al macrocosmo della gestione del grande condominio, dei grandi stati, delle grandi politiche economiche di gestione del mondo, l'Umarellaggine diventa un modello, e vedremo anche come tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 4. Non usare gli spazi comuni come fosse una tua esclusiva proprietà. Il cortile non è un garage privato. Le auto e i motorini vi possono sostare solo per caricare e scaricare il portabagagli. 5. Non fare giocare i bambini nei cortili, sulle scale o nei terrazzi negli orari stabiliti per il silenzio. 6. Non lasciare mobili o altri oggetti ingombranti sui pianerottoli o negli spazi comuni. 7. Non lasciare l'immondizia sul pianerottolo. 800240024, questa mattina, presi da una sorta di euforia pop, vogliamo iniziare a studiare quello che è l'agglomerato umano per eccellenza, il condominio. Da lì trarremo le indicazioni per un'accurata oculata gestione di quelli che sono i grandi spazi. I governi dei grandi paesi dovrebbero, i presidenti dei grandi stati, prendere esempio dagli Umarels, che regolano i condomini. Come li regolano i condomini? Attraverso dei cartelli. La cartellonistica dell'Umarel è la prima regola base della legge scritta e non sancita che regola i rapporti tra esseri umani. Qui non è gradita la pubblicità cartacea. L'inosservanza comporta la segnalazione agli organi che regolano l'imposta. Non si sa cosa voglia dire, però in un condominio hanno attaccato questo. Non mettete i volantini nelle cassette alla posta, sennò avvertiremo gli organi che regolano l'imposta. Cioè denunceremo le aziende che mettono questa pubblicità e gli manderemo la finanza a fare dei controlli. Questa è nella traduzione umarellica. Sgombrate, sennò chiamiamo la forza pubblica. Poi molto c'è il senso della delimitazione degli spazi, cancelli, muri, inferriate, ringhiere, steccionate, sono tutte le cose che l'Umarel gestisce e non rimanere sempre chiuse. Lasciare libero il passaggio, rimozione assicurata. Si prega di chiudere la porta onde evitare di far entrare lucertole e topi. Poi, avete chiuso i rubinetti? Una domanda. Sto facendo dei lavori. Poi, togli il sistema antifurto nelle ore di riposo. Quali sono le ore di riposo? Boh, per l'Umarel probabilmente sono dalle 2 di pomeriggio alle 6 di sera. Alle 6 di sera si apparecchia la tavola e si va a cena. Togli il sistema antifurto nelle ore di riposo, suona e disturba, taglieremo le gomme. Il sistema è drastico. Se non togli l'antifurto alla macchina e quindi rischi che qualcuno te la rubi, noi tagliamo le gomme. Decidi se è meglio fartela rubare o è meglio farti tagliare le gomme. Luigi, buongiorno. Buongiorno a lei. Andiamo grazie al punto. Allora, niente, l'ho già segnalato prima, che praticamente io sono in un condominio dal 2010 e questo condominio c'ha una aiola che le posso dire 25-30 metri quadrati. E prima di arrivare lì, in questo condominio era proprio disastrata completamente questa aiola. E allora io mi sono parlato con l'amministratore, mi sono impegnato gratuitamente, così dico, ma me ne occupo io di questa aiola, la metto a posto. Poi ho trovato due sponsor praticamente. E gli sponsor chi sono? Gli sponsor chi sono? Gli sponsor è un'agenzia che ci ha scritto, perché c'è una ringhiera, un'agenzia di viaggi e un olificio. E mi sono fatto dare praticamente 50 euro all'anno per i fiori, perché immagini bene lei, no? È una bella sponsorizzazione, 50 euro all'anno, non è male. Però su, gli ho detto, ma perché questi qua? Ah no, non paga niente. Allora dico, sono andato, ho bussato e gli ho detto 50 euro uno, 50 euro l'altro. Io sono un volontariel, cioè un URL volontario che si occupa di meglio. Bravissimo, perfetto. Vede, c'è un esempio che poi, quando c'è una società ben ordinata, con qualcuno che fa rispettare le regole, anche con una certa durezza, tagliando le gomme se non togli l'antifurto, poi sboccia improvvisamente il senso civico, con la collaborazione e la partecipazione, emerge la figura del volontariel. Franco, buongiorno. Buongiorno dottore. Pronto? Sì, l'ascolto, vada subito dottore. Al problema, non perdiamo tempo. Allora, io nel mio palazzo ho avuto sempre problemi con l'inquilina del piano superiore. Nel corso degli anni mi ha criticato il fatto che avessi il cane, e adesso il cane se l'è fatto anche lei, del fatto che uscissi con la moto facendo rumore dal garage, e poi il marito ha comprato la moto anche lui. Quindi la invitano, diciamo, sono invidiosi e quindi invidiosi. Fanno tutto quello che fa lei. È chiaro. Allora. Esatto, e poi ultima cosa, invece la cosa più, diciamo, fastidiosa. Devastante, fastidiosa, è la mattina che alle 7 cammina per casa con i tacchi a spillo. Quindi anche lei cammina con i tacchi a spillo, deduco? No, mia moglie, tempo fa è andata su e gli ha regalato un... Perché sua moglie anche lei gira con i tacchi a spillo? Per essere... Assolutamente no! E allora non la imitano in questo, è una loro peculiarità? Sì, questo non la imita. Ha un vantaggio, purtroppo... però, scusi, il suo vicino ha un vantaggio su di lei, ha la moglie con i tacchi a spillo, cosa che lei non ha. questo sicuramente. È perché la vuole fare schiattare, ci vede mia moglie, gira anche di sera con i tacchi a spillo, la sua in ciabatte magari, capisci? È vero, poi l'ultima cosa, noi il capo palazzo così definito lo abbiamo defenestrato da circa 3 anni. Ci ha ucciso, eliminato? No, ma ci è mancato poco perché lui non usava il discorso dei cartelli, ma andavamo proprio al verbale puro. Sì, ma come è finito? Con i tacchi a spillo com'è finita la storia? Cosa ha fatto? Ah, niente, la signora è ritornata a camminare con i tacchi la mattina, per cui... E come l'ha dissuasa? Cosa ha messo? Un cartello? Cosa ha fatto? No, cerco diciamo la via diplomatica, la mattina quando la incontro dico abbi pazienza, dico sai sento rumore, cioè, ma io mi preparo, devo uscire, dico ma ti prepari un'ora prima di uscire. Vabbè, non è, sono fatti non loro, ognuno ha la sua vita. Sì, personale. Ma anche perché nel condominio purtroppo c'è il problema, ecco quella è un'altra parola, l'equilibrio, perché purtroppo poi si litiga ma ci si incontra. Però vede, noi stiamo usando questo modulo di riferimento per capire com'è l'equilibrio poi tra l'equilibrio mondiale tra i grandi stati, sarà possibile regolarlo se si riparte dalla base, dalle regole umarelliche di gestire il condominio. Kofi, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Chiamo da Verona. Allora, nel nostro condominio ci abito da ormai 11 anni. Sì. C'è un pensionato, per 7 anni aveva la macchina posteggiato un posto, non lo muoveva mai, lo lavava ogni giorno. La lavava con il, con il secchio della fontanella pubblica? No, beh, con l'asciugamano bagnato. Ah, proprio come fosse un essere umano, pezzo per pezzo, tutto il giorno con una pezzetta bagnata se la lavava. Sì. Ma guai se tu quella macchina magari lo spostava per andare a fare benzina e tu mettevi la tua lì, trac, te la graffiava subito. Era il suo per usucapione, diceva che è il mio. Adesso, tolto la macchina, non so la... Cos'era, una bella 124 fiammante? No, era una Lancia Dedra. Ah, sì. Adesso, l'altra cosa che fa lui, ogni inquilino nuovo che entra, che magari metti il nome, sai, di solito scrivi il nome su un pezzo di carta. Certo. Nel frattempo, lui subito te la strappa. Eh beh, non è regolare, devono essere tutti stampigliati con lo stesso font, dalla stessa tipografia, è una disarmonia. Guardi, è un punto nevralgico. Danilo Masumasotti, ricordo autore di Oltre il cantiere, fenomenologia degli Umarels, l'omogeneità della bottoniera dei campanelli è un altro. Anche a me strappano spesso il bigliettino quando uno attacca con l'adesivo il nome prima che ancora l'amministratore di condominio lo faccia stampare dall'apposito tipografo. Può esserci, l'Umarel deve ripareggiare tutto a costo di mantenere il nome di un inquilino morto, toglie il nome dell'intruso che graficamente deturpa la bottoniera dei campanelli. Sì, cioè l'Umarel ha molto sviluppato il concetto di ordine. Tutto deve essere a posto. Uniforme, tutto, uniforme. Uniforme, è sempre così. È molto importante questa cosa, ad esempio i campanelli sono, cioè vanno protetti tantissimo, campanelli, citofoni e buchetti, campanelli, perché i campanelli sono il tramite che se suoni il campanello l'Umarel può rispondere al citofono. Sono come le frontiere per gli stati, è il controllo delle frontiere, il controllo, esatto, del campanello. Il controllo, certo, delle frontiere. Perché c'è l'alta barriera, c'è la porta, anche il primo pezzo dove c'è la porta e le buchette che magari sono all'interno, quello è un'altra area che va controllata. Ma usano lo spioncino gli Umarels? L'Umarel si usa lo spioncino. E, una cosa che utilizza molto è comunque il cartello che si è diffuso ovunque, che è quello che indica la buchetta condominiale della pubblicità. Quello è fondamentale perché l'Umarel per sua natura comunque non è consumista, non gli interessa niente che gli arrivi dei volantini che pubblicizzano degli smartphone, delle ultra tecnologie, perché il vero Umarel ha un facciamo anche pubblicità, un Nokia vecchissimo, cioè ha sempre quel telefono. Sì, ormai fuori commercio, quindi fuori commercio. Ha un telefono fuori commercio che se si rompe trova magari un nipote che glielo acquista su eBay e fondamentale, ad esempio anche su questi telefoni, il cartello sul telefono, ovvero nel retro del telefono viene attaccato con lo scotch il numero di telefono della sua linea, perché l'Umarell, rifiutando se lo dimentica, comunque questa, certo, questa tecnologia, si rifiuta di memorizzare un 338 e così via. Fermo un istante, Daniele, fermo un istante, devo lasciare la linea, riprendo con te proprio fra un secondo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. (800) 24 0024, impariamo a conoscere i sistemi di controllo capillare del condominio, capiremo meglio i sistemi di controllo globale degli equilibri mondiali. Luciana, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, io no, qui non c'è nessuno che controlla, perché io abito in una zona, in un consorzio dove c'è un condominio, e una consorziata ha piantato su un marciapiede un'agave qualche anno fa. Quest'agave è diventata enorme, praticamente questo marciapiede si trova in prossimità di una curva, quindi non si può più passare, siamo costretti a passare in mezzo alla strada con quest'agave pericolosa ed enorme. Ma ci sono anche le spine, mi sembra, sull'agave, o sbaglio? Come? È una pianta che ha delle spine pure. Sì, ha delle spine enormi, vi assicuro che sarà un metro e mezzo di diametro, occupa tutto il marciapiede, nessuno si è mai preso la briga di far presente questa cosa. Ma lei non conosce un Umarell dotato di sega che possa tagliare l'agave nottetempo? Magari, no. Se lo trovi però, deve cominciare a trovare. Guardi, è una cosa assurda, e questa è una violenza, è possibile uno deve subire queste cose? Ma tagliatela, qual è il problema? È un'agave, non è che sarà una pianta pregiata. È enorme, sì, ma potremmo anche farlo, però poi si va incontro pure a qualche problema, perché poi non è una strada comunale. Quindi è un problema grosso, un po' l'agave spinosa che occlude il passaggio della signora Luciana, non ha avuto a suo tempo un Umarell che pensasse a falcidiarla e oggi rappresenta un pericolo sociale. Vedete, se i problemi non si estirpano alla radice, poi crescono e diventano un'infezione per tutti. Ines. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io abito in un grande condominio nella periferia nord di Milano, possiamo anche dire la città, Bresso. Allora, non si esponga troppo, però meglio sempre essere prudenti. Sì, vabbè, ormai l'ha detto. Sì. Brescia. Comunque, qualche anno fa un'inquilina che abita sopra di me faceva far la pipì al cane sul terrazzo, il cane era anziano, e scendeva nel mio giardino. Questo condominio ha tutti i giardini privati a piano terra. Quindi aveva lo stillicidio dell'urina del cane anziano sul suo, sul suo balcone. L'avevano vista tutti, io interessato. Ma lei ha fatto una foto dello sgocciolio? L'ASL, i carabinieri, ovviamente amministratore, altri vicini di casa. Quindi ha fatto una serie di stanze di protesta. Non si poteva fare niente. C'è il libero stillicidio di pipì di cane per legge? Non ho capito, mi scusi. Cioè è un'attività lecita fare la pipì al cane nel balcone, no, con sgocciolamento, no, sotto? No. No, perché fra l'altro nessuno poteva intervenire, anche la forza pubblica, diciamo, certo, i carabinieri, perché è un territorio privato, è un suolo privato, io avrei dovuto fare una denuncia. Ce l'ho un magistrato che facesse proprio un'istanza di perquisizione. Una cosa pazzesca. A un certo punto il marito ha detto, ma io chiudo sempre con dei legnetti quei buchetti di scolo dal balcone, di qualora. E così ristagnava e gli rimaneva tutta nel loro balcone però. Sì, sì. Cioè è stata una cosa impossibile, l'odore eccetera, alla fine il cane è morto, non ho potuto fare niente. Tutti è rimasto nel balcone, è rimasto nel balcone o l'hanno seppellito? Penso che l'abbiano seppellito. Vabbè, adesso ce n'è un altro, vorrei sapere se dovesse succedere tra qualche anno. Beh, aspetti, di solito la prostata dei cani comincia a dare problemi dopo una quindicina d'anni, quindi c'ha tutto il tempo. No, ma il fatto che questo personaggio qui è una cosa in tutte. Vabbè, abbiamo capito il problema, Ines, lo so che attenda, se il cane è giovane, prima che rifaccia che abbia incontinenza urinaria passeranno anni, magari in quel momento hanno inventato i pannoloni anche per cani incontinenti, visto che c'è un merchandising importante, e quindi non sarà più un problema per lei. Danilo Masomasotti, allora andiamo a completare il quadro delle attività umarelliche legate al controllo del territorio. Abbiamo detto scusa sì. Gianluca, su questo argomento del cane interessante, specifica, perché certo, è stato trattato nel mio libro, c'è proprio una sezione del libro dove l'umarel può strappare, cioè quando non basta il cartello amanuense scritto a mano, attaccato con lo scotch, così l'umarel può stampare delle targhette in metallo oppure scrivere anche un cartello e fare riferimento al codice. Ad esempio, io ho a pagina 196, c'ho proprio un cartello specifico che la signora poteva utilizzare, dove c'è scritto: attenzione, piove pipì di cane dal balcone del terzo piano, articolo 674 codice penale. Ma esiste davvero? Allora, io ho controllato ovviamente le fonti e articolo 674 è getto pericoloso di cose. Quindi, in maniera raffazzonata, gli umarel mettono degli articoli, spesso anche a caso. Guarda, un umarel mi ha scritto, nello specifico, la sentenza della Cassazione numero 12028 del 1993, sezione seconda, codice civile, stabilisce che sfamare gatti nel condominio non è reato, purché non vengono lasciati contenitori di carta terra. Vedi che è più diffuso che di quello che si possa immaginare lo spirito umarellico. Lo spirito umarellico, ma poi è abbinato, cioè l'umarel che si documenta e scrive cartelli e targhette a norma di legge. Anche perché, Beato, lui ha un sacco di tempo a disposizione. Ha un sacco di tempo, cioè in questo modo cioè, la sua autorità viene anche valorizzata dal fatto che... Mentre noi perdiamo leggi, tempo in cose futili come lavorare, leggere libri, occuparsi, l'umarel sotto sotto stabilisce i fondamenti del suo potere. Oltre al cantiere e fenomenologia degli umarels, Danilo Masomasotti, un testo utilissimo a capire dove andrà a finire il mondo. Alla prossima.